La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte e ciao a tutti. Corpo di Stato. Da molti anni ormai è stata decretata la cosiddetta morte cerebrale, che altro non è che una definizione fittizia di morte fatta a tavolino. Il cervello sarebbe in uno stato di coma, per cui secondo i protocolli non più in grado di riprendersi, ma il corpo è vivo. Il concetto di morte cerebrale è utilissimo per il business degli espianti trapianti, perché gli organi morti chiaramente non si possono trapiantare. È la cosiddetta donazione, tra virgolette, per morte cerebrale a cuore battente. Ora, sul Corriere della Sera del 14 e 15 settembre scorso, leggiamo che è stata effettuata una cosiddetta donazione, sempre tra virgolette, a cuore fermo. Non più quindi da un paziente con il cervello fuori uso, ma in arresto cardiaco. Non ha molta importanza la questione tecnica, addentrarsi nei meandri del quanto uno è morto, se sia più morto che vivo o più vivo che morto. La questione è politica. La morte non può essere decisa con protocolli di Stato. Lo Stato non si può arrogare il diritto di decidere quando una persona è morta. Dovrebbe attuare solo delle procedure di salvaguardia, cioè assicurare il famoso tempo congruo di osservazione per evitare di dichiarare morto o inumare, cremare o quello che far si voglia, a seconda degli usi, dei costumi, della volontà personale, qualcuno che invece morto sembra morto ma morto non è. La questione non è di lana caprina, perché evidentemente se lo Stato dichiara a tavolino una morte fittizia, gli interessi sono importanti. In una società basata sul profitto e su una struttura classista, razzista e sessista, si aprono scenari facili da immaginare. Il neoliberismo, che attualmente si è affermato in maniera dilagante, ha cominciato il suo percorso diverso tempo fa e ha trovato un servo disponibile attivo nella socialdemocrazia, che con l'uso strumentale del lessico e dell'armamentario della sinistra è riuscita ad annullare non solo la capacità, ma perfino i riferimenti e le coordinate di un pensiero critico. In questo il politicamente corretto si è rivelato strumento devastante di manipolazione delle coscienze. Si è verificato uno spostamento importante da quello che era lo Stato di diritto borghese allo Stato etico di matrice nazista. Lo Stato diventa padrone e tutore delle nostre vite. Non solo vuole decidere se dobbiamo lavorare o non lavorare, come e quanto, se siamo sfruttabili o siamo esercito di riserva, se possiamo divertirci e come lo dobbiamo fare, come dobbiamo consumare e come deve essere mercificata la nostra esistenza, come e quando dobbiamo amare, ma ci dobbiamo affidare completamente anima e corpo. Alla pretesa di normare continuamente i nostri comportamenti, mascherando il tutto sempre con nobili intenti e migliori fini. Così il Consiglio dei Ministri qualche giorno fa ha approvato il divieto di fumare in auto se ci sono bambini o donne incinte. Poi poco importa se i bambini mangeranno la diossina, respireranno i gas delle fabbriche, vivranno senza casa sotto i ponti, in attesa di morire di lavoro. Poi, magari, quando cadranno da qualche impalcatura o saranno colti dal arresto cardiaco, potranno essere usati come pezzi di ricambio. Scusate, ho la tosse. I malati di cuore, quelle che sono a rischio di infarto, sappiano che potrebbero essere spiantati invece che curati, a seconda degli interessi di questo sistema. Ma siccome siamo nel regno dell'ipocrisia, sono stati messi per legge i defibrillatori in ogni dove. Quando l'ipse dixit la faceva da padrone, il signore aveva il diritto di vita e di morte sui suoi sudditi. Gli zar e i boiari possedevano le anime insieme alla terra, e queste anime neppure si potevano sposare senza il consenso del signore. Ma ancora oggi negli Stati Uniti il corpo dei detenuti e delle detenute appartiene allo Stato. È l'eccezione fatta nell'emendamento della Costituzione che aboliva la schiavitù, per cui non possono decidere quando e come curarsi, perché è lo Stato che decide. Il corpo non è più loro. Si sta verificando il trasferimento di questo principio alla società tutta. Il nostro corpo non è più nostro, è dello Stato che si arroga il diritto di usarlo come vuole. Non è forse controllando i corpi refrattati con il confino, l'obbligo di dimora, i fogli di via, che lo Stato sta mettendo in atto la più capillare forma di repressione sociale? Il pensiero illuminista aveva liberato la volontà individuale e la capacità di ognuno di decidere della propria vita. Ma la borghesia ha fatto in modo di ottenere dagli esseri umani la sottomissione e l'asservimento volontario. Così ha quadrato il cerchio. Renderci tutte e tutte schiavi volontari e proprietà dello Stato è l'obiettivo non palese, inconfessato, ma messo in atto giorno dopo giorno da questo sistema di potere. Ciao.